40 anni, fare 40 anni è una cosa a cui penso da un po' di tempo, e la radio ci arriva prima di me, e arriva però con la giovinezza che soltanto una radio può avere, perché si rinnova continuamente. Io farò delle canzoni, perché quello so fare nella vita, e farò delle canzoni civili, insomma, che hanno un connotato sociale, ma credo che un po' tutte le canzoni lo abbiano, perché parlano dell'uomo. Sarà una grandissima, grandissima festa. Invito quindi chiunque a venirsi a trovare per ascoltarci e per portare qualcosa di sé all'interno di questa radio, che è fatta della gente e per la gente, quindi sicuramente parla anche di tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento, e anche degli amici di quelli che stanno ascoltando. Quindi portate un sacco di amici.